Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Referendum costituzionale respinto dal Tribunale Civile di Milano in ricorso di Onida sullo spacchettamento del quesito. Proteste di piazza contro la vittoria di Trump in una dozzina di città. Oggi il presidente eletto sarà alla Casa Bianca con Barack Obama. Contatti tra Mosca e gli uomini del tycoon durante la campagna elettorale, fa sapere la Russia. Molto bene i mercati oggi. La produzione industriale in crescita dell'1,8% su anno, ma in calo in settembre dello 0,8%. Manovra si lavora sugli emendamenti. Centinaia di persone, soprattutto donne, alla camera ardente di Umberto Veronesi. Alla fine non ha voluto essere curato, dice il figlio. Via i nomi italiani e fascisti, si torni al tedesco. L'Alto Adige contro l'Accademia della Crusca. La SVP vota con i secessionisti. A Reggio Calabria il vescovo rifiuta 10.000 euro per ristrutturare una parrocchia. Sono soldi sporchi, non li vogliamo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura dunque parliamo di referendum perché la tanto attesa decisione del Tribunale Civile di Milano è arrivata. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, e così nessun obbligo di spacchettare il quesito, nessuna lesione del diritto di voto, il Tribunale di Milano salva il referendum costituzionale del 4 dicembre scongiurando ogni ipotesi di rinvio. Il giudice civile Loreta Dorigo ha infatti respinto il ricorso presentato il 27 ottobre dal costituzionalista Valerio Nida e da un gruppo di legali contro la consultazione popolare. I ricorrenti in pratica contestavano la chiarezza e l'omogeneità del quesito, il quale a loro dire, essendo composto da vari temi, violava la libertà di voto dell'elettore poiché lo invitava a decidere sull'intero pacchetto senza poter valutare le diverse componenti, ma spiega la giudice, è invece la stessa Costituzione a connotare l'oggetto del referendum come unitario e non scomponibile. Ricorso dunque respinto, se fosse stato accolto la patata bollente sarebbe invece passata alla Corte Costituzionale, che però non avrebbe avuto il tempo materiale di decidere. A quel punto solo un decreto avrebbe potuto eventualmente rinviare la consultazione in attesa della decisione. Insomma, di certo uno scenario complicato che appunto è stato evitato. Intanto continua la campagna di Renzi per il sì, referendum non sarà per l'Italia l'equivalente della Brexit o della vittoria di Trump, dice il premier, è un voto contro la vecchia guardia che ha fallito, mentre oggi parte da Aosta il treno tour hashtag io dico no, che porterà i portavoce del Movimento 5 Stelle in giro per l'Italia a spiegare le ragioni del no. E da Roma è tutto. Grazie dunque Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Veniamo alle cronache delle elezioni americane, iniziando però dalla cronaca delle proteste di questa notte. Una scuola che ascolti le esigenze dei territori. No, scusate, c'è un errore nel file. Dunque, andiamo, prima di andare a sentire il servizio sulle proteste di questa notte, andiamo all'incontro tra Obama e il neopresidente che ci sarà oggi, Mario Platero. Fra poche ore Barack Obama accoglierà Donald Trump alla Casa Bianca. La macchina per la transizione dei poteri in America si è già messa in moto. Non solo l'incontro fra i due presidenti, il presidente eletto e il presidente uscente, ma anche il lavoro della squadra per la transizione per formare il nuovo governo. Il governatore Chris Christie del New Jersey è a capo di questa strada. L'America dunque si muove in avanti, e questa dimostrazione di efficienza, di passaggio pacifico, organizzato dei poteri. Le dichiarazioni quasi umili dell'altra sera di Donald Trump hanno avuto un effetto immediato, soprattutto sui mercati che hanno chiuso in territorio positivo. Non l'hanno avuto necessariamente su migliaia di giovani che in tutta America hanno dimostrato, a partire da New York, dove c'erano 5.000 di questi ragazzi sulla Sesta Avenue, che rifiutavano di riconoscere Trump come loro presidente. Mario Pratero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Non solamente questi, non solamente quelli di New York erano in piazza a protestare, sentiamo. Gridavano diversi slogan le migliaia di manifestanti scese in piazza in diverse città degli Stati Uniti, ma il più comune è stato Not My President, non è il mio presidente. Esattamente là dove ieri la mappa si era tinta del blu dei democratici, ci sono state le più imponenti manifestazioni. New York, Chicago, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Boston e così via. Assembramenti anche davanti alla Casa Bianca, dove si invocava il nome di Barack Obama. Ma il corteo a più alta tensione è stato quello di New York, dove i manifestanti hanno puntato dritto sulla Trump Tower. Alcuni bruciavano maschere ed effigi del volto del nuovo presidente, che si trovava con la sua famiglia proprio nel grattacielo. L'area, blindatissima dal giorno del voto, era controllata da decine di agenti, alcuni in assetto antisommossa, e camion antibomba proteggevano l'isolato. Alla fine 30 arresti a New York, 15 a Los Angeles. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Durante la campagna elettorale per le presidenziali ci sono stati dei contatti tra la Russia e i membri del team di Donald Trump, lo ha detto il viceministro russo Sergei Ryabkov, secondo quanto riferisce Interfax, rispondendo a un giornalista che gli chiedeva se questi contatti si intensificheranno dopo la vittoria di Trump. Ryabkov ha risposto che si tratta di questioni di lavoro e la successione delle azioni dipenderà dai temi che affronteremo. Veniamo al fronte dei mercati, come vanno le cose oggi? Decisamente bene, Valentina Furlanetto, no? Sì, vanno bene, sono state smentite le previsioni di tracolli azionari in caso di vittoria del candidato repubblicano. Ora il mercato sembra concentrarsi sull'agenda economica di Trump. L'agenzia Standard & Poor's ha confermato il rating AA+ agli Stati Uniti d'America, affermando che le sue istituzioni sono sufficientemente solide per compensare la mancanza di esperienza e le incertezze del presidente neoeletto. E quindi in Europa è tutto un segno più per i mercati questa mattina. In particolare a Milano l'indice è in rialzo di 1,5%, Parigi più 1,23%, Londra più 0,64%, Francoforte più 1%. Fra le curiosità, indice di Mosca in rialzo del 2,8%, un record del 2016 viste le prospettive di maggiore apertura da parte di Trump. A sostenere i listini contribuiscono i conti trimestrali migliori delle attese di diverse società in Europa, da Vivendi a Zurich a Siemens, e volano le banche con i principali titoli che a Milano salgono di oltre il 4%. In particolare, Simone, segnaliamo il migliore del listino al Banco Popolare più 6,49%, poi la Popolare di Milano che è in rialzo dello 6,21%, Unicredit del 5,47%. Per chiudere, l'euro sul dollaro a 1,0907 ed è tutto. Grazie dunque a Valentina Furlanetto. Intanto, per rimanere sui mercati, i tassi in rialzo nella prima asta di bot dopo appunto l'elezione di Trump. Il Tesoro ha collocato tutti i 6 miliardi di euro di bot annuali con il rendimento medio in rialzo e comunque negativo a meno 0,217 dal minimo storico di meno 0,238 del collocamento di ottobre. La domanda è in crescita. E oggi i dati sulla produzione industriale mentre prosegue il lavoro del Parlamento sulla manovra. Addio al Tax Day del 16 giugno. Le scadenze fiscali d'ora in poi saranno infatti in due tranche. Il pagamento di IRPEF, IRAP e IRES dovrà essere effettuato entro il 30 giugno, mentre il pagamento di IMU e TASI resta al 16 giugno. Lo prevede un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra approvato dalle commissioni Bilancio e Finanza della Camera. Via libera anche al pacchetto semplificazione e all'allungamento dei tempi per il pagamento della rottamazione delle cartelle esattoriali. L'esame del decreto fiscale in commissione alle battute finali e il provvedimento approderà in aula alla Camera lunedì prossimo, in ritardo di qualche giorno rispetto alla tabella di marcia iniziale. Quasi scontata quindi la richiesta di fiducia da parte del governo. Oggi intanto sono arrivati i dati Istat sulla produzione industriale di settembre, scesa dello 0,8% rispetto ad agosto, ma cresciuta dell'1,8% rispetto a settembre 2015. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di un'inchiesta delle Iene che ha messo in luce un sistema che crea parecchi problemi sul tema dei biglietti per i concerti e riguarda anche un grande gruppo internazionale. Il tema è quello del cosiddetto bagarinaggio digitale. Sentiamo. Prima gli esposti contro il fenomeno del bagarinaggio 2.0 delle associazioni dei consumatori per i biglietti dei Coldplay esauriti in pochi minuti, poi l'apertura di un'indagine della Procura di Milano per truffa informatica su 30.000 biglietti dell'ultimo concerto di Bruce Springsteen a Milano nel luglio scorso. Ieri, infine, un servizio del programma televisivo di Italia 1, Le Iene, nel quale è stato rivelato che la società organizzatrice di eventi e concerti Live Nation sarebbe coinvolta nella rivendita secondaria di biglietti per i concerti in Italia. Subito Vasco Rossi ha sospeso ogni rapporto commerciale con Live Nation, tra cui il concerto modenese per i 40 anni di carriera. Sconcertato e indignato Tiziano Ferro, anche se gli è stato garantito che Live Nation non ha mai messo suoi biglietti sul mercato secondario. E si dissocia completamente anche Marco Mengoni, ora impegnato nello show prodotto da Live Nation. Nel frattempo si stanno attivando anche altri promoter come Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts Promotion, il quale sta verificando se esistono i presupposti legali per una causa collettiva nei confronti di Live Nation per gravi danni di immagine e di credibilità a tutta la categoria. Live Nation, da parte sua, in un comunicato ufficiale ha precisato che le affermazioni nel servizio delle Iene si riferivano a pochi artisti internazionali e che nessuno degli artisti italiani ha mai chiesto di assegnare propri biglietti alla rivendita secondaria. Nel frattempo il Kodakons, poiché la vicenda sembra proprio una truffa aggravata ai danni degli utenti, ha deciso di presentare una nuova denuncia alla Procura della Repubblica di Milano, questa volta contro Live Nation. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di biglietti, i risultati ancora in crescita per Cinema Today, l'iniziativa lanciata dal Ministero con Anica, Anim e Anem e Anec, che sconta i film a 2 euro ogni secondo mercoledì del mese. Ieri nelle 3.000 sale in tutta Italia si sono contati 1.027.000 biglietti staccati. Questo il quadro al debutto il 14 settembre. Gli spettatori erano stati 598.000, quindi quasi un raddoppio. Siamo alla Camera Ardente di Umberto Veronesi a Milano per farci raccontare questo flusso continuo di persone, soprattutto di donne che arrivano là davanti. C'è la nostra Cristina Carpinelli. Cristina, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Vai. Allora sì, è molto emozionante stare ad ascoltare le voci delle persone che sono venute a dare l'ultimo saluto al professor Umberto Veronesi. Ci sono tantissime donne, davvero, tra loro parlano, si raccontano molte storie, molte infatti sono ex pazienti che sono state curate, salvate da Veronesi. Ci sono donne giovani, donne anziane, alcune si commuovono ricordando Veronesi, la sua disponibilità, la sua dolcezza, ma anche la determinazione nel perseguire un'idea di laicità, il suo impegno nella ricerca scientifica. Amava le donne Veronesi e le donne lo hanno capito e sono qui in fila emozionate a salutare il professore. Per questo che abbiamo raccolto molte voci, ve ne facciamo sentire alcune. Io non temo le sfide, e quindi io sono stata operata al seno 13 anni fa e quindi proprio dal figlio, e insomma mi hanno salvato la vita, ecco, per cui, e poi adesso faccio la volontaria lì a Lio e quindi mi sembrava doveroso. Sono venuto per Veronesi perché è una persona veramente che merita. Ho consultato per mia sorella, purtroppo non c'è stato niente da fare, però è stata una persona deliziosa nel modo di porsi e nell'aiutarmi. E ha curato un sacco di persone. E quindi merita venirla a vedere. Ci sono tantissime donne qui in fila. Perché secondo me? Per la prevenzione soprattutto. Sono stata operata, non qua, però in una scuola sua, insomma a Siena. Ho avuto l'operazione tanti anni fa. Perché lui ha abbattuto anche il luogo comune che se avevi un tumore al seno dovevi togliere tutto. Cioè ha mantenuto anche quell'essenzialità della femminilità delle donne, l'ha rispettata. Certo, sì. Ecco, queste le voci, alcune voci che abbiamo raccolto. Poi ovviamente qui nella Camera Ardente ci sono i familiari del professore. Non pensavo che mio papà fosse così tanto amato, ha raccontato la figlia ai nostri microfoni, e poi il figlio Alberto ha sottolineato invece la giovinezza di questo padre, sempre impegnato per temi come l'eutanasia, il pensiero laico. Una Camera Ardente a cui ha partecipato anche il Ministro della Salute Lorenzin. Porteremo avanti la sua battaglia per la ricerca scientifica, ha detto ai nostri microfoni. Sentiamo. Io l'ho conosciuto, una persona con cui mi sono molto confrontata, una persona di una grandissima umanità, e per venire per me era naturale, sì. Rendere omaggio ad un ministro della salute come ministro della salute, rendere omaggio a un grande scienziato e anche a tutte le cose che lui ha cominciato e che dobbiamo portare avanti. Penso alla grande battaglia per la prevenzione e per la ricerca scientifica, quindi il pensiero che lui ha sempre avuto per le donne, per l'umanizzazione delle cure, per la sconfiggere il cancro, è qualcosa che fa parte della mia quotidianità come ministro, ma che deve essere nella quotidianità di tutti gli italiani e le italiane. Quindi per questo e per tanti altri motivi, anche per dare un abbraccio a una straordinaria famiglia. Molte, diciamo, le persone comuni ancora adesso in coda per rendere l'ultimo omaggio, l'ultimo saluto al professor Veronesi, ma molti anche i visi noti, tra questi Carla Fracci, Rita Pavone. La Camera Ardente qui a Palazzo Marino resterà aperta sino alle 22.30 e domani dalle 8 alle 11, ora in cui si celebrerà una cerimonia laica. E per ora è tutto, Simone, ti restituisco la linea. Ti ringrazio, grazie a Cristina Carpinelli. Vi ricordo ancora una volta che domani ci sarà una puntata speciale di Cuore e Denari dedicata esattamente al professor Veronesi, e abbiamo aperto una pagina sul nostro sito www.radio24.it sulla quale potete, se volete, raccontare la vostra esperienza, che cosa ha cambiato nella vostra vita, che cosa ha cambiato anche il suo modo di affrontare la malattia. Noi ci fermiamo adesso, c'è il traffico, poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e inizieremo dalla infinita vicenda dei toponimi italiani in Alto Adige, perché il Consiglio Provinciale di Bolzano si è espresso contro l'Accademia della Crusca. Insomma, si vogliono ripristinare i nomi tedeschi. A tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del referendum costituzionale, del fatto che il Tribunale Civile di Milano ha respinto il ricorso di Onida che voleva lo spacchettamento del quesito. Abbiamo parlato ancora di elezioni americane, anche con le proteste di piazza contro la vittoria di Trump, ma anche con un iniziale passaggio di consegne che ci sarà questo pomeriggio. Abbiamo parlato della produzione industriale che cresce e degli emendamenti sulla mano, e abbiamo parlato anche della Camera Ardente, come avete sentito, di Umberto Veronesi, il grande scienziato e oncologo Umberto Veronesi. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo dall'Alto Adige, ammesso che... come dire, nel dire che iniziamo il nostro giro per l'Italia da là, il presidente della provincia autonoma Arno Compacer non si offenda a questo punto. Compacer, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. ci stava come battuta, perché parliamo dei toponimi, dei nomi dei luoghi, ecco, per essere più semplici con gli ascoltatori, dei nomi dei luoghi dell'Alto Adige. Che cosa succede? È in ballo una vicenda che si sta trascinando da mesi, perché si sta pensando di rivedere questi toponimi, soprattutto quelli che hanno nomi italiani, quelli che conosciamo quando andiamo in Alto Adige come turisti, e sono molte migliaia gli italiani che vanno in Alto Adige come turisti, sia d'estate che d'inverno, perché c'è una parte, no, della politica altoatesina che vuole cambiarli questi toponimi e vuole di fatto mettere solamente quelli in tedesco. Qual è l'ultima evoluzione di questa vicenda? L'ultima evoluzione di questa vicenda è un voto del suo partito, tra l'altro, la Südtiroler Volkspartei, insieme ai secessionisti altoatesini, per attaccare l'Accademia della Crusca e dire che ci sono tutta una serie di nomi, come dire, che risalgono a prima del 1900, che vanno ripristinati. Ho capito bene, compaccio? Volete cancellare i nomi italiani dalla toponomastica altoatesina? No, figuriamoci. Cioè, qui bisogna fare chiarezza e bisogna leggere soltanto la mozione che è stata approvata ieri, il verbale anche della seduta del Consiglio provinciale, oltre anche ai comunicati del mio partito. Ieri si è voluto fare chiarezza sul fatto che storicamente c'è stato un atto di aggressione, cioè nel periodo fascista, oltre alla cancellazione, diciamo, di tutti i nomi di lingua tedesca, anche i nomi delle persone, tra l'altro, il divieto dell'insegnamento della lingua. Tutte queste cose furono ovviamente un torto storico e credo che su questo non ci sia alcun dubbio, no? Perché retorica di lingua tedesca, e poi si è cercato questa politica di nazionalizzazione, di italianizzazione del territorio. Questo è un fatto storico e nella mozione si scrive che questo è un fatto storico. Una delle operazioni era proprio quello, diciamo, ma scusi, compagno, aspetti un attimo, sì, prego. Che fu fatto da Ettore Tolomei, che ha poi diciamo fatto l'elenco di questi nomi italiani, e qualcuno adesso diceva che questo avrebbe una base scientifica. Ha detto no, hanno una base ideologica di allora, dato storico. Oggi invece non possiamo tornare indietro nel tempo, nessuno lo vuole fare, cioè nessuno, non dico ci sono gli estremisti che vorrebbero farlo. No, mi scusi compagno, perché per essere partito. Molto mi permetta, per essere molto semplice, no? Non cancelliamo i nomi che voi conoscete, già questo lei all'inizio ha detto questa cosa, nessuno intende fare questo. Cioè, per dire, le faccio un esempio, mi scusi, la vetta d'Italia resta vetta d'Italia? Aspetti un attimo, per ora i nomi tedeschi non sono ufficiali e questo sicuramente non è una cosa giusta. Innanzitutto si tratta di ripristinare finalmente la legalità ufficiale dei nomi, dei toponimi tedeschi che sono quelli originari, primo passo. Secondo passo, tutti i nomi dei comuni sono comunque già previsti in legge e non saranno toccati. Si tratta di prevedere una commissione tecnica scientifica che dovrà individuare quei nomi, prima i nomi originari da ripristinare e poi quei nomi italiani non utilizzati, cioè che non sono conosciuti, un prato spericolato in Val di Vizze, che non andrebbero più ufficializzati. Poi la persona stessa in privato può utilizzare il nome che vuole. Sì. E questo è quello che prevede una soluzione di buon senso dopo. Però voglio dire, se voglio arrivare, mi scusi compace, sì. Dico questo. Allora, ci sono due domande. La prima, ha senso fare questa operazione dopo magari 100 anni? Ed è la prima domanda. La seconda domanda, mi scusi, siete una regione, una provincia ad alta vocazione turistica. Ma io che vado a fare una passeggiata in montagna e mi trovo su un cartello un nome in tedesco e non il nome in italiano al quale ero abituato fino all'anno scorso, ma non è un po' una scemenza, scusi? No, innanzitutto in tutti gli altri posti, nella Valle d'Aosta per esempio sono stati ripristinati tutti i nomi francesi e sono stati poi non più utilizzati quelli italiani. La Catalogna stessa cosa per i nomi catalani e quelli spagnoli. Da noi non si è mai fatto e per questo motivo diciamo anche noi, purtroppo non si è fatto nell'immediato dopoguerra, che sarebbe stato un altro discorso, adesso questi nomi sono entrati anche nel patrimonio delle persone che ci vivono. Per quello l'operazione è proprio quella di dire quelli che sono entrati nel patrimonio culturale delle persone che vengono utilizzati sono per loro i nomi di quelle cose, di quei posti. Al di là dell'origine fascista del nome, però il nome stesso non è più questo lato aggressivo, lo era storicamente e questo l'hanno detto ieri, adesso non lo è più, no, appunto. Oggi fa parte di chi in quinta generazione è nato nel nostro territorio, fa parte della sua Heimat, della sua identità. E nessuno vuole togliere i nomi che sono utilizzati, è proprio questo che la norma di attuazione che stiamo discutendo prevede. Per quello ci siamo arrabbiati con la CUSC, che ha fatto un appello dicendo non cancellate i nomi, perché ha fatto un appello che era inutile, perché quella non era proprio l'obiettivo. E soprattutto qualcuno poi... Quindi non intendete cancellare i nomi? Quindi non intendete cancellare i nomi. Beh, mi faccio un esempio pratico. La famosa, appunto, la vetta d'Italia rimane la vetta d'Italia, perché è nota, no, così. Lei ovviamente ha scelto appositamente quel punto lì. Su quella c'è una proposta, siccome quella era la più discussa, perché ovviamente faceva parte di quell'operazione di far capire qui Italia e niente, non si parla più tedesco e così via. C'è stato a suo tempo già una proposta di compromesso, sì, di chiamarla vetta d'Europa, cioè di neanche utilizzare quel nome tedesco, okay, che è Luca Krakow, ma di dire ormai siamo europei. Siamo europei, quindi la chiamiamo vetta d'Europa. Non lo so, perché su questo dovranno innanzitutto discutere le commissioni. Però quello che è chiaro, qui non c'è nessuna operazione di pulizia etnica o altro, perché non si può sanare un torto storico con un nuovo, con una nuova cosa. Questo non è la nostra intenzione, per quello mi raccomando, basta leggersi la mozione che è stata, sì, approvata, che vuole soprattutto sottolineare l'aspetto storico, che allora, e che questo non va negato. Allora, che suo tempo era un torto. Allora, compace, terremo sotto occhio la vicenda e vedremo come evolverà. Vedo che la vicenda, tra l'altro, scalda molto i nostri ascoltatori, quindi magari ci torneremo. Grazie, Anno Compace, presidente della provincia autonoma di Bolzano. Noi ci spostiamo dall'altra parte d'Italia. Andiamo da Francesco Oliva, che è il vescovo di Locri. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, salve. Allora, la storia viene raccontata oggi dalla Repubblica ed è una storia che abbiamo trovato molto bella. Che cosa succede? Succede che lo abbiamo raccontato agli ascoltatori di questa maxi operazione che ha riguardato un'inchiesta condotta dalla Procura di Roma sui grandi appalti dalla TAV alla Salerno Reggio Calabria. Tra le aziende, tra le persone arrestate c'è una persona che si chiama Domenico Gallo. Tra le aziende di questa persona ce n'è una che ha finanziato il rifacimento di una parrocchia, la parrocchia di Bovalino. Ebbene, lei ha detto, vescovo, noi questi soldi, questi 10.000 euro non li vogliamo. È così, no? Certo, nel momento in cui abbiamo scoperto questo fatto, il semplice dubbio che potessero essere soldi provenienti da una società così sotto inchiesta per noi è stato importante per rifiutare, diciamo, questa offerta, perché non vogliamo avere minimamente, diciamo, essere da questo punto compromessi minimamente con queste organizzazioni, con questa associazione. Vogliamo che quello che viene dato alla Chiesa sia frutto anche di un semplice gesto di generosità e soprattutto frutto del sacrificio di chi opera. I lavori li abbiamo comunque realizzati con le offerte, con il contributo dell'8 per 1000, anche con piccole offerte provenienti dai fedeli di Bovalino molto generosi. Vescovo, la sua diocesi, quella di Locri, da questo punto di vista è una diocesi piuttosto difficile. È frequente che, e qua parliamo ovviamente di un'altra situazione, parliamo di un'azienda, parliamo di una vicenda di appalti, ma è frequente che l'Andrangheta o ditte collegate all'Andrangheta offrano denaro appunto per il rifacimento delle chiese o come elemosine, anche solamente, come dire, diciamo così, per rendersi belli, no? Anche nel paese nel quale vivono? Non ho elementi per poter affermare che è così. Ecco, in questo caso abbiamo avuto un sentore un po' di tutto questo e abbiamo rinunciato. Nel momento in cui noi abbiamo elementi concreti che ci fanno dubitare, diciamo, sulla qualità dell'offerta che viene data, noi rinunciamo. Però non sempre questo è possibile, non sempre abbiamo elementi certi per poter esprimere questa valutazione. Certo, il suo predecessore Giancarlo Bregantini diceva, lo leggiamo sempre oggi dal quotidiano che pubblica questa vicenda, la mafia tende insidie ai sacerdoti, se c'è un campanile da aggiustare è facile che ti arrivi un generoso contributo. Sì, il fatto che non si presenta col nome mafia e quindi diventa molte volte difficile poter discernere. Chiaramente quando si tratta di un'offerta di una certa consistenza, allora il dubbio nasce, quindi ci si riflette e si prendono le decisioni, però voglio dire, non è che di queste offerte ne arrivino, è il primo caso che le capita, e quindi abbiamo deciso questo anche per indicare una linea da seguire. La ringrazio, grazie a Francesco Oliva, vescovo di Locri, per essere stato con noi. Una piccola precisazione ad un ascoltatore, Andrea da Bologna, che dice: chi non la pensa come voi dice delle scemenze. No, guardi, quando abbiamo parlato di scemenza, abbiamo parlato semplicemente del rischio per il turismo che può rappresentare una cosa di questo genere sull'Alto Adige. Non giudichiamo, no, sulla decisione di mettere i nomi in tedesco oppure no. Semplicemente stiamo sentendo vari fronti su questo e diciamo, insomma, per il turismo, se cambi nome al turista da un anno all'altro del luogo dove va, non è proprio il massimo, tutto sommato. Comunque, ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo. Ieri vi avevamo annunciato che avremmo parlato della vicenda, siamo riusciti a rintracciare, speriamo che oggi mi ci risponda al telefono, il sindaco di Agrigento, con il quale vogliamo parlare di abusivismo, perché c'è questa denuncia, per così dire, arrivata dal procuratore di Agrigento, il quale dice, le ordinanze in provincia sono tantissime per abbattere villette abusive, costruzioni abusive, eppure ne vengono abbattute pochissime, mi pare siamo nell'ordine del 1500 contro i 26 abbattimenti in tutta la provincia. Ne parliamo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il referendum costituzionale è stato respinto dal Tribunale Civile di Milano, il ricorso di Onida sullo spacchettamento del quesito. Le proteste di piazza contro la vittoria di Trump in una dozzina di città. Oggi il presidente eletto sarà alla Casa Bianca con Barack Obama. La produzione industriale in calo in settembre dello 0,8%, in crescita dell'1,8% in un anno. Centinaia di persone, soprattutto donne, alla camera ardente di Umberto Veronesi, alla fine non ha voluto essere curato, dice il figlio. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Calogero Firetto, sindaco di Agrigento, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Ed è qua, da qua riparte il nostro giro per l'Italia e riparte da questa voce che vi facciamo sentire. Agrigento città ha in questo momento pendenti 12.376 istanze di sanatoria e o condono e ne ha conclusi, ne riesce a concludere meno della metà, circa 6.000. Vi do i numeri di quanti immobili si sono demoliti concretamente in questo ultimo triennio. Agrigento ne ha demoliti soltanto 6. Allora, Firetto, questo è Luigi Padronaggio, la voce l'avrà riconosciuta perché è il procuratore di Agrigento, appunto, in Commissione Ambiente l'altro giorno alla Camera, che racconta un po' la situazione dell'abusivismo e dei problemi che ci sono evidentemente ad abbattere, no? le abitazioni abusive. Parecchie ce ne saranno, immagino, anche ad Agrigento, e solo 6 abbattimenti negli ultimi 3 anni. Firetto, che succede? Ma guardi, io sono sindaco da un anno e all'indomani della mia elezione mi sono trovato sul tavolo, 2 giorni per l'esattezza dopo la mia elezione, non appena arrivato a Palazzo di Città, mi sono trovato la diffida da parte della Procura a procedere alle demolizioni sulla base di un elenco di sentenze passate in giudicato che dovevano essere eseguite. E abbiamo dato corso con immediatezza, come è noto, abbiamo proceduto alla demolizione, credo di 8, diciamo, ha dato corso a 8 sentenze secondo quello che era il canovaccio che no, c'era. Mi scusi, mi faccia capire meglio, Firetto. Lo stesso procuratore che abbiamo sentito in questa audizione in Commissione Ambiente e che lamenta un'evidente lentezza o una problematicità, no, chiaramente negli abbattimenti, come dire, vi ha fatto inviare dei fogli nei quali vi dice: guardate che se abbattete le case abusive è un problema, o no? No. Allora, sto dicendo una cosa che è diametralmente opposta a quella che sta dicendo lei. No, cioè, 2 giorni dopo il mio insediamento a Palazzo di Città, quindi non appena sono salito, cioè 2 giorni dopo le elezioni, mi sono trovato la diffida della Procura della Repubblica a procedere ad un blocco di demolizioni in relazione ad delle sentenze che erano passate in giudicato. In giudicato, ok. Il Comune, sotto quindi la nostra gestione, ha approntato le risorse e ha proceduto alle relative demolizioni, credo che siano 8. Giova sottolineare che una porzione delle demolizioni, diciamo, che facevano parte di questo elenco trasmessoci dalla Procura, sono state spontaneamente eseguite dal privato, che è stato attinto dal provvedimento, il che ci ha consentito di poterne fare ulteriori, forse 12 se non ricordo male. Quante ne dovete fare? Dopodiché, ancora, sindaco? Guardi, l'elenco ci viene trasmesso di volta in volta dalla Procura perché sulla base di un protocollo d'intesa che ha sottoscritto la mia amministrazione con la Procura della Repubblica di Agrigento, noi di fatto siamo il braccio operativo della Procura per la esecutività di sentenze passate in giudicato. Qual è il nodo, di difficoltà, lo capisce immediatamente chiunque. I comuni vivono una condizione di difficoltà finanziaria notevolissima. Noi giusto la settimana scorsa siamo stati auditi dalla Corte dei Conti, che conosce bene qual è la condizione del Comune di Agrigento, che è sull'orlo del dissesto finanziario. Quindi approntare delle risorse in anticipo rispetto, diciamo, alla necessità che poi ti vengano restituite dal privato, poiché le demolizioni vanno in danno rispetto al privato, questa difficoltà tra l'appostamento delle risorse e i tempi del recupero generano un'esposizione, ma non solo per il Comune di Agrigento, per tutti gli enti locali, che è evidentemente drammatico. Cioè, da quel che ho capito lei dice: o pago i servizi sociali che deve pagare il comune, oppure faccio gli abbattimenti. Questo è un po' il concetto. Assolutamente sì. Intanto noi abbiamo dovuto tagliare, come è noto, servizi sociali in maniera drastica, ma qui il problema va oltre l'assicurazione dei servizi sociali. Cioè, in questo momento, se dovesse passare la legge di stabilità così come è stata proposta dal governo, con la riduzione della possibilità di anticipazione di cassa da parte dei comuni, cioè per intenderci il ricorso all'indebitamento per avere liquidità, dai 3/12 ai 5/12 era quest'anno, se torna a 3/12 il mio comune a gennaio non sarà in condizione di pagare gli stipendi ai dipendenti, quindi altro che continuare a demolire. E quindi a gennaio potreste trovarvi... Ragione per la quale ci vuole una situazione di ordine finanziario che metta anche al riparo i comuni da queste esposizioni. Del blocco dei 100.000 euro erotti che abbiamo dovuto sostenere con le prime demolizioni, stiamo avviando le procedure esecutive, a questo momento non abbiamo recuperato neppure un euro. Diffido che entro il prossimo anno recupereremo anche qualche euro, benché già nel bilancio di quest'anno abbiamo dovuto mettere ulteriori risorse per procedere a un nuovo blocco di abbattimenti per il quale abbiamo già avviato e in fase di avvio il bando pubblico per realizzare questo ulteriore blocco di demolizione. Abbiamo veramente 30 secondi, Sindaco. Mi schiarisce anche brevemente perché si va così a rilento con le che cosa sono, richieste di condono, di cosa parlava il procuratore? No, vabbè, di sanatoria. Le sanatorie edilizie, non so se in quel passaggio il procuratore si riferisce alla zona A, cioè di inedificabilità assoluta, o invece sanatorie più in generali, per le quali diciamo l'attività degli uffici tecnici si è dato un canovaccio abbastanza diciamo stringente da un anno a questa parte, e il numero degli immobili sanati secondo le leggi diciamo vigenti è andato avanti. La ringrazio, grazie a Calogero Firetto, nulla, sindaco di Agrigento, le auguro una buona giornata, finalmente l'abbiamo beccato dopo averlo cercato ieri, adesso ci fermiamo, c'è il traffico, Mario Platero, oggi abbiamo avuto qualche problema tecnico, lo sentirete al telefono, però insomma sono giornate importanti quelle, quindi vi raccomando di ascoltarlo, traffico, Platero.